Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 14 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio e TV. Io sono Caterina Bombarda con Antonella Cortese alla conduzione di questo programma che, come sapete, fa da ponte tra carcere e città e vi illustra, vi racconta le notizie appunto che riguardano la realtà carceraria del nostro paese e non soltanto, anche notizie internazionali. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Ecco, partiamo con le notizie di oggi. Italiani più accoglienti, ora l'immigrazione fa meno paura del Covid. Lo leggo sulla Repubblica a firma di Ilvo Diamanti, perché nonostante gli sbarchi stiano proseguendo, la percezione del fenomeno immigrazione nel nostro paese è molto cambiata. Ci sono meno richieste di respingimenti e c'è più accoglienza verso anche lo ius soli. Oggi gli immigrati fanno meno paura, a quanto suggeriscono i dati di un sondaggio recente di Demos, suscitano comunque almeno un grado di preoccupazione molto minore rispetto a qualche anno fa. Basti ricordare quando nell'autunno del 2017 venne ritirato lo ius soli, ovvero il progetto di legge che prevede il riconoscimento della cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia. Perché il consenso a questa legge era talmente calato dopo l'estate di quell'anno che i promotori dell'iniziativa, i partiti di centro-sinistra e soprattutto il PD, avevano ritirato il progetto di legge temendo di perdere consenso elettorale. E come non dimenticare l'annata del 2018, quando la questione migratoria è stata cavalcata alla stragrande dalla politica, in particolare dalla Lega, dall'allora ministro dell'Interno, poi diventato Matteo Salvini, che ovviamente aveva tratto evidente beneficio da tutto questo. Beh, oggi la situazione sembra essere diversa, lo dice appunto il sondaggio condotto da Demos, che ne fornisce un po' una rappresentazione cambiata. Sì, in primo luogo il peso della popolazione, di quanti ritengono che gli immigrati costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza si è ridimensionato profondamente. Pensate che si è dimezzato, si è passati dal 46% nel 2017 al 27% attuale. Allo stesso tempo è tornato a crescere il favore per l'accoglienza verso profughi e immigrati, condiviso ben dal 52% degli italiani intervistati, mentre si è ridimensionata la domanda di respingimenti, anche rispetto alle conseguenze della situazione in Afghanistan, come emerso dal sondaggio pubblicato qualche giorno fa su Repubblica. Il possibile arrivo, infatti, dei profughi in Italia risulta l'ultima delle preoccupazioni degli italiani. Caterina, è evidente che c'è stata una profonda trasformazione, sia nell'opinione dei cittadini, ma anche proprio nell'approccio. Secondo te, da che cosa è dovuto tutto questo? Ma innanzitutto sicuramente è cambiata la percezione di questo fenomeno migratorio, che prima era molto più enfatizzata dai partiti politici di segno opposto, ecco. È inoltre cresciuta la consapevolezza di quanto gli immigrati siano una componente necessaria nella nostra vita sociale. Pensiamo al lavoro, ai lavori anche nell'economia, vi sono attività che ormai svolgono soltanto gli stranieri, nelle imprese, industriali e non solo. Sono lavori che svolgono, se non esclusivamente, gli stranieri. E infine, e forse anzitutto, diciamo che la paura degli altri è stata sostituita dalla paura verso il virus, quello che ha prodotto proprio e fatto circolare da noi, di cui abbiamo sentito parlare lungamente in questo anno e mezzo. Non per caso l'approvazione delle politiche rivolte ai respingimenti è calata sensibilmente dopo il 2019, quindi dopo l'irruzione del Covid nella nostra vita. Queste ragioni, e non solo, hanno contribuito a ridefinire l'atteggiamento dei cittadini, degli italiani verso gli immigrati, percepiti non solo, anzi non più come motivo e fonte di paura, ma osservati al contrario come una possibile risorsa. Tuttavia, come è detto, la questione ha perduto, diciamo, rilievo e centralità nell'opinione pubblica, questa degli immigrati. Gli immigrati fanno meno paura di un tempo. L'importante, per questo motivo, la cosa importante è operare per l'integrazione. Vi lascio con un brano dei Passenger dedicato a questo argomento, To Be Free, a fra pochissimo. Farmland, New Jersey. Farmland stretching. far as the eye can see. Not much down there but sun-scorched pastures in 1953. The war was over and they came searching for a place to be. They left the Rhineland, they lost their homeland and all their family. Like feathers on the ocean breeze, they went spinning and tumbling across the sea. Never know where they'd come down or who they'd be. Like heather on the hillside, they were bruised and they were battered by the breeze. Searching for a place to be free. Sunburned summers, frostbite winter. Kids were plainly dressed. Rieccoci e bentornati dopo il brano musicale. Siamo sempre su Liberi dentro il Giuradio TV e parliamo di ambiente, Antonella, vero? Sì, sì, parliamo di ambiente con qualcosa che in effetti conosciamo anche molto bene, perché se sarà approvata una proposta della Commissione europea di revisione della direttiva sulle apparecchiature radio che mira a ridurre i rifiuti elettronici, tutti i nuovi telefonini o telefoni, tablet, fotocamere, console portatili venduti nell'Unione Europea dovranno usare un unico batteria standard di tipo USB-C. La Commissione spiega che questo regolamento renderebbe la ricarica più conveniente, ridurrebbe l'impatto ambientale della produzione e anche dello smaltimento dei caricabatterie. Secondo i dati, ogni anno nel territorio dell'Unione Europea finiscono nella spazzatura o in discarica, pensa un po', 11.000 tonnellate di caricatori. Ma quindi stai dicendo che potremmo mai avere un caricabatteria universale? Guarda, la riforma costringerebbe i produttori a vendere i futuri dispositivi senza il caricabatteria addirittura, perché avendo creato uno standard comune la maggior parte delle persone ce l'avrebbe. Un formato comune di caricabatteria ridurrà i rifiuti elettronici di quasi 1.000 tonnellate, almeno questa è la stima che hanno fatto, 1.000 tonnellate l'anno in tutta Europa, sostiene la Commissione, il che lascerebbe fuori comunque circa 10.000 tonnellate di rifiuti ogni anno, però è un passo comunque interessante. I computer portatili e altri dispositivi di grandi dimensioni però non sarebbero inclusi in questa riforma. E mentre c'è da dire che la maggior parte dei modelli di smartphone venduti in tutto il mondo usa già questo USB-C, quindi questo tipo di attacco, ma alcune aziende, in particolare l'Apple, sono contrarie alla proposta perché dichiarano di essere preoccupati che una rigida regolamentazione che impone appunto solo un connettore soffochi l'innovazione piuttosto che incoraggiarla, un fatto che a volte che può danneggiare anche i consumatori in Europa e nel mondo. Però bisogna anche dire che l'Apple ha un lungo passato di elusione degli standard industriali e di sviluppo di connettori su cui detiene un brevetto esclusivo. Insomma, se qualcuno ha l'iPhone lo sa benissimo che il caricabatterie serve all'iPhone e non serve ad altri tipi di smartphone. Quindi quando fu lanciato nel 2007 il primo iPhone era dotato di questo connettore a 30 pin progettato proprio da Apple. Altri telefoni all'epoca utilizzavano porte micro USB o altri connettori sottoposti anche questi a brevetto esclusivo. Per non fartela lunga, il connettore 30 pin è stato sostituito nel 2012 con un altro connettore che si chiama il Lightning, grazie al quale insomma si è trovato questo nuovo connettore che è USB-C, che però non è ancora, diciamo, omologato per tutti. E quindi dopo aver saputo, diciamo, cosa propone la Big Tech Apple, cosa propone quindi invece la Commissione europea per normalizzare il mercato? Guarda, la Commissione europea propone di dare alle aziende 2 anni per effettuare il passaggio alla tecnologia USB-C. Secondo la Apple, però, si tratta di un periodo troppo breve, nonostante l'azienda sforni, e c'è da riconoscerlo, lo sappiamo tutti, nuovi modelli quasi ogni anno, e sostiene che i vecchi modelli dei suoi telefoni tendono a rimanere in vendita come alternative più economiche per i clienti e a volte anche per un bel po' di anni. Un eventuale cambiamento riguarderebbe probabilmente i nuovi modelli venduti in tutto il mondo e non si limiterebbe alla creazione di una versione diversa in Europa. Però questa è una storia vecchia, perché è già successo nel 2009 che la Commissione europea avesse tentato un passo simile, chiedendo che le porte micro USB, cioè quelle precedenti a quelle attuali, diventassero lo standard per tutti i telefoni. Ma alla fine la questione si era risolta in un accordo non vincolante firmato dai produttori. Però un effetto ci fu al tempo, perché ridusse da 30 connettori esclusivi a soli 3 connettori esclusivi, che erano appunto USB-C, micro USB e Lightning. Però poi alla fine si è chiusa qua la storia. Mentre l'Apple aveva firmato appunto l'accordo volontario appunto nel 2009 insieme ad altre aziende, e per 2 anni non si è uniformata, visto che comunque era un accordo volontario, non c'era nessuna implicazione, diciamo, giuridica. La sua soluzione ha rispettato i termini previsti all'accordo, ma forse un po' non lo spirito. Pensa che offrì ai clienti la possibilità di appostare un adattatore, quindi non cambiò il caricabatterie, ma offrì appunto un adattatore per potersi uniformare. Oggi la commissaria Margrethe Vestager, cioè la commissaria dell'Unione Europea per la concorrenza e responsabile delle politiche di sviluppo della Commissione Europea, ha dichiarato che il settore ha ricevuto un sacco di tempo per trovare le sue soluzioni, ma che adesso è necessaria un'azione legislativa. Quindi, Antonella, a volte servono solo le leggi, vero? A volte si arriva sì, a questo punto. Se le proposte dell'Unione Europea non sono vincolanti, si può non rispettarle. Ma pensa che anche nel Regno Unito, che dopo la Brexit, lo sai, insomma, la situazione è diventata completamente diversa, anche l'adeguamento a certe normative non è necessario, esiste un certo sostegno all'idea da parte dei politici britannici, tant'è che Philip Dunn, presidente della Commissione di Controllo Ambientale del Parlamento britannico, ha dichiarato che ci sono 140 milioni di cavi inutilizzati nelle case del Regno Unito, abbastanza per fare 5 volte il giro della terra, e per ridurre lo spreco che deriva dalla produzione di cavi, i produttori dovrebbero accordarsi su uno standard comune che ci permetta comunque di riutilizzare i cavi esistenti quando sostituiamo i nostri dispositivi elettronici. Allora, ci stiamo immaginando un futuro che cambia, un futuro diverso, e per questo motivo ci fermiamo con una canzone che è una canzone iconica, che è Imagine di John Lennon, che è però cantata da India Carney. Ascoltiamola, una bellissima versione. Or hunger, yeah. brotherhood of men. Yeah, yeah, yeah. Imagine all the people. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro di Radio e TV. Proseguiamo l'intervista con la nostra testimonial di queste puntate, Silvia Giralucci, che è anche autrice, negli ultimi mesi è andato in onda su Radio 24 ed è anche in versione su Audible, del podcast su Pianosa, l'isola del diavolo. In questo racconto di viaggio su Pianosa, a un certo punto, pedalando su una bicicletta in compagnia di una guida del posto, ti sei trovata davanti alla sezione Agrippa, dove sono stati rinchiusi anche alcuni degli assassini di tuo padre. Hai voluto ricostruire parte di questa storia intervistando Franco Bonisoli, che è uno degli autori del rapimento di Aldo Moro, e volevo chiederti come è stato incontrarlo. Allora, innanzitutto ho scelto un ex brigatista che avesse una storia particolare, nel senso che negli anni mi sono spesso confrontata con ex brigatisti, confrontata intendo attraverso i giornali, con ex brigatisti che rivendicavano il diritto di parlare in pubblico, si lamentavano contro quello che loro definiscono un ergastolo bianco, e parlavano spesso delle loro scelte ideologiche, dimenticando il lato umano di tutto quello che hanno fatto. E questa cosa la ricordo molto precisamente anche durante il processo per l'omicidio di mio padre. E alcuni anni fa è iniziato un percorso di confronto tra ex brigatisti e alcune vittime, a cui io non ho partecipato, ma che ho seguito, come dire, da lontano esternamente. E Franco Bonisoli è uno un brigatista che ha scelto di, come dire, la strada faticosa di guardare in faccia le vittime e di farsi carico anche della loro storia, perché come dice lui nel podcast, fin tanto che tu hai davanti un nemico è un conto. Nel momento in cui, oltre alla tua storia, alla storia del fallimento, a quello che hai, alla tua vita devastata, alla vita devastata dei tuoi familiari, aggiungi anche il carico della vita devastata delle vittime, è molto difficile. Più semplice è dire quella società faceva schifo, almeno io qualcosa ho provato. Questa è la strada semplice. La strada difficile è dire io ho fatto un disastro per tante persone. Quindi, sapendo, conoscendo già la sua posizione, ho scelto di incontrarlo per farmi raccontare la sua detenzione a Pianosa e come, per capire come lui era arrivato a maturare una sensibilità diversa. La parte secondo me interessante della sua testimonianza è nel fatto che racconta questa detenzione durissima nell'isola di Pianosa, nella sezione, in una sezione che non era nemmeno vicina al mare, quindi era in un posto isolato, in una sezione in cui vedevi solo gli uccelli e non c'era niente intorno. A un certo punto lui dice: ti potevano uccidere, ti poteva succedere qualsiasi cosa, a quel punto avrebbero potuto dire che tu avevi provato a scappare, tanto lì non c'erano i telefoni, non c'erano i cellulari, non c'era niente, i detenuti non avevano alcuna maniera di difendersi, era anche la vera, come dire, condizione di timore di quella sezione era proprio l'isolamento totale. Ma nell'ottica di un brigatista, la durezza del carcere non era qualcosa che lo induceva a cambiare idea. Anzi, uno Stato che imponeva quella condizione di detenzione era a maggior ragione uno Stato che andava abbattuto, quindi rafforzava l'idea brigatista. Lui racconta che la prima incrinatura a questa sua ideologia è stato quando nel corso di un processo è stato mandato a Torino, nel carcere Le Vallette, che all'epoca era appena costruito, e trovò un direttore di carcere, il dottor Surace, che disse: questo carcere è nuovo, aiutatemi a capire alcune cose, fate una commissione e dite di che cosa secondo voi ci sarebbe bisogno. E lui dice, a quel punto, senza nemmeno una protesta, senza nulla, ci chiedono, ci trattano come delle persone. E qui questo Stato da abbattere, che improvvisamente ti tratta come una persona, ti lascia spaesato, e di lì inizia un percorso, poi condiviso con altri brigatisti, che lo porta ad azioni anche molto dure, perché a quel punto, racconta lui, dire che hai sbagliato tutto e avere la prospettiva di rientrare in una società che era la società che tu avevi che tu volevi abbattere, non è proprio così semplice, è più facile forse voler morire, suicidarsi a quel punto. E questo è, come dire, il carcere duro che mi ha raccontato Franco Buonisoli. Esperienza completamente diversa, e non direi altrettanto, ma probabilmente più tragica, è un'altra. Esatto, stavo proprio per arrivare su questo, perché all'opposto della storia di Buonisoli potremmo dire c'è quella di Gaetano Murana, condannato ingiustamente per la strage di Paolo Borsellino, detenuto per 18 anni, di cui 16 al 41 bis, prima di essere riconosciuto completamente innocente e vittima di depistaggi. Qual è la sua visione su Pianosa? Allora, lui viene portato da una situazione di normalità, una persona incensurata che ha un bambino piccolo, si è sposato da poco, fa il netturbino, una mattina viene arrestato, viene portato in commissariato, scopre che lui, come altri vicini di casa del quartiere della Guadagna di Palermo, sono accusati di un reato gravissimo, strage, e viene portato a Pianosa e immediatamente sottoposto a vessazioni di ogni tipo per convincerlo a collaborare. Ma chiaramente lui collaborare non poteva, perché in questa storia non c'entrava nulla. E qui c'è un altro punto fondamentale anche della storia di Pianosa. Non solo a Pianosa ci sono stati trattamenti inumani nei confronti di alcuni detenuti, ma, come dire, nella nostra storia l'esistenza di carceri come Pianosa ha consentito i depistaggi, perché Scarantino, il pentito che ha fornito questa fantasiosa ricostruzione sulle stragi, sul particolare omicidio di Borsellino, lo ha fatto proprio perché era detenuto a Pianosa e per trovare un modo per uscire da quello che era l'inferno di Pianosa. Nel momento in cui tu metti i detenuti in una condizione totalmente disumana, è molto più facile manipolarli. È stato possibile per lo Stato dare una risposta a quell'ansia di giustizia che c'era in quel momento nel 92, ma una risposta che non era la verità, era una risposta falsa. Silvia, ti ringrazio, anche oggi il nostro focus sui testimoni, e domani sempre di nuovo con te per parlare di Pianosa oggi. A presto, e un brano musicale, ci rivediamo tra pochissimo. Solo te mandi lo cielo, dame riva. Dame vita, o te fatto riso a man, dame vita. Ti me perdonie, ma te penso so ben ta mio ma un po' c'è o largo tu son chi affaccio a sto baule da maina e son chi a mia tre camicie te valì due coperte o mandolin e camà E anche oggi ci salutiamo, ci diamo appuntamento con le nostre rubriche tra pochissimo su Lepida TV, se ci state ascoltando alle ore 13.30, oppure in replica alle 17 e anche in pomeriggio sempre su Teletricolore. Abbiamo le pillole di Antigone, l'ufficio del difensore civico dei detenuti di Antigone, che ci racconterà come funziona questo istituto, e poi le interviste di Caterina, cioè le mie interviste a Paola Leotti sui laboratori Teleradio Reporter di Bollate. Un saluto carissimo e un invito a scriverci redazione liberidentro@gmail.com, e quindi vi salutiamo sempre io, che sono Caterina, e Antonella Cortese, e ovviamente Enea Flacco al montaggio di queste puntate. Grazie e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.